Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Abi Norme? Sono quasi sicuro che era quello il nome. Vorreste dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2,20 metri e largo come un armadio a due ante? Canaglia! È questo che vorresti dirmi? Presto, dategli! Cosa? Chissà perché quando noi pensiamo ai progressi della tecnica, della scienza, della tecnologia, immaginiamo sempre degli scenari foschi, dei futuri in cui gli uomini faranno cose abnorme. Tutte le volte che noi abbiamo una notizia di cambiamenti anche radicali, anche importanti, delle nostre routine quotidiane attraverso la tecnologia, pensiamo sempre adesso dove andremo a finire, chissà cosa accadrà, quando in realtà ogni giorno abbiamo un'infinità di micromutamenti, le nostre abitudini, ci cambiamo, ci mutiamo attraverso una promiscuità con le macchine, che ormai non fanno più parte di un mondo alieno, di un mondo esterno, non esiste più questo discrimine così spesso e così invalicabile fra mondo della tecnologia e mondo cosiddetto della naturalità. Dove inizia la nostra natura, dove finisce, dove questo concetto ormai da riscrivere, da sovrascrivere? Beh, oggi mi sembra la giornata adatta per affrontare questo tema e questo problema. Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ecco, hai scritto un libercolo edito dalla San Paolo, è stato anche anticipato, allegato a Famiglia Cristiana, che in realtà contiene una tua tesi che da tempo stai portando avanti, su cui ti ho spesso affiancato, che in realtà aggiunge alle beatitudini una nuova e da decifrare e da spiegare al nostro pubblico: beati quelli che sapranno pensare con le macchine. Il titolo del libro è Connessi. Qual è il punto importante per cominciare a pensare con le macchine, senza pensare che le macchine siano qualcosa che comunque è così estraneo e, come appunto abbiamo detto nella premessa, a volte ostile? La macchina ci porterà verso un futuro in cui saremo disumanizzati. Vale ancora questa sorta di premessa catastrofica? Assolutamente no, però per uscire dal cortocircuito intellettuale che continua a considerare, quasi per esorcizzarle, le macchine come dei corpi estranei, bisognerebbe avere quella educazione scientifica che consente di rinquadrare le macchine come delle inedite modalità di relazione attraverso cui noi ci interfacciamo col mondo, tentiamo di comprenderlo e tentiamo di comprendere anche noi stessi. Nel 1943, per riprendere un esempio in qualche senso citato nella clip che ci ha preceduto, uno dei più grandi logici e matematici dell'Occidente, cioè Alan Turing, confessava a un suo amico di voler costruire un cervello ed era perfettamente consapevole che questa sua intenzione fosse sarebbe stata recepita come una provocazione. In realtà il suo progetto di progettare una macchina pensante, perché di questo si trattava, era un grande gesto di umiltà, perché sapeva bene che riprodurre o cercare di riprodurre significa anzitutto comprendere, in questo caso, come funziona un cervello, o perlomeno alcune funzioni del cervello. Quindi quello che perlomeno da Frankenstein, non solo da Frankenstein Junior, ma dal Frankenstein originario di Mary Shelley, era stato percepito come un atto di tracotanza prometeica di chi vuol essere o vuol fare come Dio, e che Frankenstein Junior ha rideclinato nel famoso si può fare, in qualche senso si deve fare, perché è un atto di umiltà e non un atto di tracotanza, ecco. È un atto di comprensione del mondo e della sua complessità a partire dalla nostra complessità. Noi stiamo parlando oggi a un pubblico che sta festeggiando, ricordando, commemorando, semplicemente stando a casa perché è un giorno di festa, il primo maggio, che ha un suo significato storico, un suo significato di ricorrenza, ma contribuisce questa sorta di ostracismo, di pregiudizio in confronto alle macchine, il fatto che le macchine vengano viste o sono state viste in passato come pericolose antagoniste degli spazi vitali dell'umanità. la paura delle macchine che sostituissero il lavoro degli uomini faceva sì che nascesse l'idea che la macchina era qualcosa di diabolico, toglieva spazio vitale all'umanità. Oggi è esattamente il contrario. Questo fantasma, per citare un celebre filosofo che su questo tema ha molto insistito, continua a circolare per l'Europa e quindi ogni avanzamento della tecnologia è visto come una minaccia per l'umanità anche dal punto di vista lavorativo. Le macchine sostituiranno le persone e le persone saranno disoccupate. Il problema anche da questo punto di vista va affrontato in un altro modo. Le macchine ridisegneranno il mondo del lavoro e tutte quanti dobbiamo ripensare quali saranno le figure, i ruoli, le funzioni all'interno di un contesto, vogliamo dirlo in maniera più difficile, di un'ontologia sociale che non esisterà indipendentemente dalle nuove dinamiche della tecnologia. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, quando abbiamo parlato delle stampanti a 3D, che sembrava una cosa che appartenesse soltanto a una schiera stretta di eletti che giocavano con le macchine, però abbiamo ridisegnato, rimmaginato l'equazione spazio-temporale. Un oggetto lo progetto a casa mia e te lo faccio arrivare a casa tua in una sorta di simbolico teletrasporto. Perché? Perché una macchina reinterpreta il mio disegno e te lo costruisce attraverso un supporto di materia che può facilmente ricostruire tutta la casa. Come vedi, le macchine ci insegnano a ripensare. Come vedi, tu lo stai insegnando, io ci sto riflettendo, a ridisegnare anche la nostra percezione del mondo. Sì, e anche dei mestieri, no? Per riprendere la tua suggestione sul primo maggio, io credo, la butto come provocazione, che le stampanti in 3D siano in qualche senso la confutazione di almeno una delle tesi della famosa scuola filosofica di Francoforte, no? Quella che ci vedeva destinati a un futuro di serialità industriale, di produzione anonima, alienata, di un'opera d'arte priva della sua aura. Assolutamente no. E in questo caso concreto delle stampanti 3D potrebbe e potrà, io credo, riemergere in una nuova forma, si intende, l'artigianato. Un artigianato non certo simile a quello che noi tutti conosciamo, ma una nuova frontiera dell'artigianato tutta da scoprire, tutta da pensare, tutta da sperimentare anche nel suo valore artistico, e non è da sottovalutare questo. Allora, noi vogliamo questa mattina proporre ai nostri ascoltatori alcune riflessioni sulle loro esperienze quotidiane, esperienze dirette, perché pensare alle macchine, si pensa a macchine estremamente complesse, a macchine lontane dalla nostra esperienza quotidiana, ma noi siamo continuamente in contatto con delle macchine. Da quando ci svegliamo la mattina il nostro tempo è regolato, scandito, supportato da delle macchine, e anche l'equazione, la concezione del nostro tempo è in qualche maniera derivante da macchine che ci danno o una sensazione di accelerazione, una sensazione di fermo, una sensazione di ritorno al passato attraverso appunto le misure ci danno nel nostro tempo. Cominciamo con alcuni oggetti semplici di uso quotidiano, vediamo di approfondire l'idea di Stefano Moriggi, che appunto sono beati quelli che riusciranno a pensare con le macchine e non pensare le macchine come qualcosa di estraneo, di ostile alla nostra condizione umana. Oggi dimostriamo quali sono i componenti principali di una lavatrice: vaschetta detersivi, elettrovalvola per il carico dell'acqua, scheda elettronica di controllo. Il sale te l'ho dato, la luce non domanda, il detersivo te l'ho messo. Ho rubinetto e l'acqua dell'aggia aperta. Ho programma chi è morto dell'aggia mezza. Che cazzo te manca? E che ce non vuoi fare no? Voglio vedere te piuttosto. Tu o io? Puzzitosa, anche io avevo venuto la voce. Questo è un film di Luciano De Crescenzo. Fa parte del folklore dell'humus napoletano, però è importante perché c'è un rapporto quasi liturgico con la macchina. C'è una sorta di venerazione della macchina, assolti tutti i compiti di sostentamento e venerazione della macchina, la macchina deve funzionare. Cosa c'è alla base, secondo te, di questo sketch comico? Intanto c'è sempre il rapporto con l'altro, della macchina percepita come un'alterità totale rispetto a noi e quindi quasi sempre come un avversario o una figura di cui diffidare. È un idolo in questo caso. Sì, diventa un idolo incontrollato, ecco, che entra nella casa come gli elettrodomestici in un certo periodo della nostra storia hanno fatto, e il timore è quello che ne prendono in qualche senso possesso magicamente, perché un altro dei problemi che emerge in questo film è il rapporto col funzionamento delle macchine. In realtà le macchine sono oggetti complessi e complicati, e indagare le macchine significa anche indagare l'evoluzione dei nostri comportamenti, delle nostre etiche, delle nostre modi di pensare anche la quotidianità. A proposito della lavatrice, si potrebbe ricordare, e non credo che sia una cosa da sottovalutare, che chi per primo, o perlomeno è ricordato come il primo che l'ha inventata, era un teologo. Era un teologo che pensava che lo sviluppo di questa macchina, lui che ha passato la vita semmai a pulire, a mondare le anime, potesse aiutare e sollevare dalla fatica le persone, in questo caso soprattutto le donne, che dovevano mondare, pulire. No, spiegami bene questa cosa, il teologo che inventa la lavatrice. Il teologo è un teologo, si chiama Christian Schaffner, è un teologo di Ratisbona che inventò la prima lavatrice. E quindi non andavano solo pulite le anime, andavano pulite anche i panni. E lì inizia la storia. Era per una, diciamo, catarsi totale, o perché era veramente sinceramente appassionato al fatto che faticassero meno le lavandaie? Sicuramente era interessato a sollevare dalle fatiche pesanti le donne che all'epoca erano destinate. Che ne erano? Siamo sul finire del Settecento. E questa macchina era utile appunto a sollevare dalle fatiche, ma in qualche senso riproduceva la metafora del teologo che puliva le anime, insomma anche quello era una sollevazione, no? Dai propri peccati. In questo senso la tecnologia era il prolungamento di una pratica che si svolgeva in un'altra macchina potentissima, che è il confessionale. Solo da quando mi hanno affidato la nuova parrocchia non riesco più a lavorare, la gente ha tanti guai e vengono da me e mi parlano, e spesso quando parlano io mi distraggo e penso ai miei problemi. Ogni tanto non do la soluzione, perché non sono veramente pentiti. Anzi, a volte vorrei picchiare qualcuno. È un pensiero che ho sempre più spesso. Addirittura picchiare? Davvero non c'è un altro modo? Mi parlano solo di sesso. Mi parlano solo di peccati sessuali. Allora, Stefano Morigi ha introdotto un concetto di macchina che probabilmente risulterà abbastanza astruso per chi ci ascolta. Dalla lavatrice si passa al confessionale. Il confessionale cos'è? Una macchina. Nella memoria che si ha del confessionale, le generazioni precedenti alle attuali, in effetti aveva una sua costruzione, una sua architettura. C'era il confessionale monoposto o biposto, il confessionale aveva una grata, aveva uno sportellino, il confessionale aveva una fila di attesa e si entrava in un altro spazio e in un altro tempo, il confessore stava dentro una tenda chiusa, il confessore una piccola lucina, il confessionale aveva una sua architettura, ci si confessava alternati. Insomma, il confessionale in sé era anche, come la lavatrice, una macchina di catarsi, una macchina di purificazione in qualche senso, Stefano. Assolutamente sì, e questa architettura, l'architettura di questa macchina era stata pensata, cioè il confessionale così come noi adesso lo conosciamo è stata progettata da Borromeo, dall'arcivescovo di Milano, ed era una macchina utile a ripensare le dinamiche della confessione, quindi il fatto che, come giustamente ricordo, ma prima di Borromeo ci si confessava così anche all'aperto, cioè all'aperto non c'era questa struttura, ma dovunque c'era un prete ti inginocchiavi e ti confessavi. Non esattamente, più o meno, però la cosa interessante è che la posizione della grata che tu ricordi, per cui il sacerdote vede il confessato ma non viceversa, il peccatore in una posizione di soggezione, detto tecnicamente, erano tutte dinamiche pensate per creare il giusto clima affinché le anime raccontassero tutto e il prete potesse controllare di fatto il comportamento. Diciamo la verità, diciamo, nell'architettura di una chiesa il vero Stargate è proprio il confessionale, il vero luogo in cui esci e entri in un'altra dimensione. Assolutamente, era pensato per questo, era pensato per ottenere le confessioni nel miglior modo possibile, dunque anche ottenere un controllo sociale sulla popolazione notevole. Era l'epoca, proprio un'idea di una deprivazione spazio-temporale, tu entravi come in un altro ambiente, la voce. Esattamente, entravi in un ambiente in cui eri indotto a dire la verità. E questo era un potente strumento anche di controllo sociale, era l'epoca della Controriforma in cui la Chiesa aveva tutto l'interesse e l'intenzione di riprendere il controllo sulla popolazione. Però è interessante che questo effetto, che è giusto, lecito, perfettamente in linea con quello che doveva essere appunto il sacramento della penitenza, si otteneva attraverso una macchina, quindi un meccanismo, non era ottenuto in altre maniere che un meccanismo. La genialità di Borromeo da questo punto di vista è questo. Per ottenere il risultato ha pensato una macchina che era stata progettata da lui attraverso una particolare struttura che induceva un comportamento. E questa è la genialità, comprendere come le macchine cambiano i nostri comportamenti. Mi rendo conto che può sembrare una provocazione immaginare il confessionale come una macchina, ma la progettazione che ci sta dietro ha la sofisticazione tale di un genio dell'architettura. Sputnik, indiscutibilmente elegante. Per una volta, tecnologia, scienza e design in Unione Sovietica andarono di pari passo, forse proprio grazie alla semplicità un po' primitiva del prodotto. Una sfera d'alluminio del peso di 83 kg per 58 cm di diametro, con quattro antenne lunghe circa 2,5 metri ciascuna, che conferivano agilità e slancio all'insieme. L'idea di sfruttare missili militari per lanciare satelliti nello spazio era sorta dopo la guerra, quando residuati bellici tedeschi erano stati studiati a quel fine. La realizzazione avrebbe stupito, conquistato o allarmato l'universo intero. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1957, in piena era Khrushchev, all'apice della guerra fredda. Noi già in passato trattammo di alcuni oggetti, di alcune tecnologie, di un momento storico e di un luogo fisico e geografico in cui la tecnologia comunque faccia parte dell'ideologia. A parlarne era il professor Giampiero Piretto. Giampiero Piretto, buongiorno. Buongiorno a voi e buona festa. È docente di cultura russa e metodologia della cultura visuale all'Università degli Studi di Milano. Allora parlammo del volume La vita privata degli oggetti sovietici, ma Piretto ha già pronto un nuovo volume che uscirà proprio a giorni, intitolato Memorie di pietra, i monumenti delle dittature, Raffaello Cortina, editore. Allora, professor Piretto, come si passa dagli oggetti che erano così legati alla cultura, ideologia, alla vita quotidiana nel socialismo reale sovietico, alle memorie di pietra, la tecnologia che deve fermare dei pensieri attraverso dei monumentali oggetti, che anche lì sono macchine che servono a convogliare l'attenzione, a convogliare lo spirito o a levare o a immobilizzare l'idea su quella che era l'idea ossessiva e costante del pensiero ideologico. Sicuramente la monumentalità è stata una categoria sempre presente fin dagli anni 20, quindi è stato Lenin il primo ad aver parlato di monumentalità, di propaganda monumentale. E poi, se vogliamo considerarla in rapporto alla vita quotidiana, quindi alla minuscola... Scusa se ti interrompo, ma Lenin stesso, sì, alla fine, mi viene in mente adesso, non posso fare a meno, è stato trasformato in una macchina. L'imbalsamazione frettolosa, a volte imperfetta, del cadavere di Lenin che viene esposto, diventa un oggetto il suo corpo. Il suo corpo diventa un oggetto, e tornando alle prime considerazioni di Morigi che ho ascoltato oggi, il cervello di Lenin era stato espiantato perché si pensava che la tecnologia sovietica avrebbe presto permesso il ritorno alla vita del cadavere. Torniamo a Frankenstein, praticamente. Torniamo a Frankenstein, infatti mentre Morigi parlava di Frankenstein e Frankenstein Junior, io pensavo a Lenin. Sarà irriverente proprio il primo maggio, ma il collegamento... E dove è lo questo. Tengono adesso il cervello di Lenin? Nell'Istituto del Cervello. Ma è surgelato oppure ormai hanno abbandonato l'idea di riportarlo? Credo che sia sotto formalina, perché all'epoca... Non ci fanno più niente, quindi. Aveva ancora la tecnica del freddo, quindi volendo si può ancora intervenire e continuare a studiarlo, anche se immagino che sia stato... È nello stesso museo dove è sotto formalina il fallo smisurato di Rasputin? No, quello è un altro. Ecco, ma perché c'è questa idea di conservare questi oggetti, questi strumenti tecnologici dell'apparato umano, dal cervello, sì, al pisellone enorme di Rasputin messo sotto, sì, formalina? Qual era il senso? Rasputin era una macchina di sesso, era noto a San Pietroburgo fra le dame delle alte società anche per le sue prestazioni eccezionali sul fronte erotico. Quindi erano estese anche, diciamo, alla persona illustre della moglie dello zar, oppure no? Pare che anche lei, per sollecitare gli interventi taumaturgici, perché il suo bimbo, era malato, il principe ereditario, guarisse dall'emofilia, si fosse concessa. D'altra parte si diceva che ci fossero riunioni di preghiera, quelle a casa di Rasputin, in cui le dame dell'aristocrazia di Pietroburgo. Ecco, spieghiamo chi è, perché magari non tutti sanno. Era un contadino, lo Stares, che si era introdotto alla corte dello zar, era praticamente plagiato tutta l'intera corte con poteri paranormali, taumaturgici, divinatori, metempsichici, non sapeva bene cosa facesse. Sì, era un contadino siberiano monaco, apparteneva alla grande categoria dei cosiddetti santi pazzi o dei folli per Cristo, era approdato a San Pietroburgo e aveva appunto plagiato la corte fino a quando nel 1916 il principe Yusupov, pensando di salvare lo Stato e l'impero, la monarchia dalle malefiche influenze di questo pazzo, lo uccise. Purtroppo non capì il principe Yusupov che la monarchia era malata anche su altri fronti, che non bastava eliminare la pietra dello scandalo per farla guarire. Poi la rivoluzione del 17 avrebbe fatto il resto. C'è chi dice che proprio fu la profezia di Rasputin, la maledizione di Rasputin, che non moriva mai, lo avvelenarono, preso le ammazzate, ci misero una mezza giornata per ammazzarlo, però alla fine gli portò male a tutta la dinastia degli zar, perché fece una bella brutta, una gran brutta fine. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo. Ci sembra perfetta questa deriva del 1° maggio, Stefano. Assolutamente sì. Melog. Cronache meridiane. Ricordo alcuni particolari di Bologna in cui da bambino di 1 anno mi impuntavo e dicevo che volevo tornare a casa a tutti i costi in carrozza, e non mi muovevo da lì finché non mi si portavano in carrozza. Non ricordo, cioè, i palazzi, i portici, eccetera. E ho cominciato a sognarli però a 3 anni di età. Sogni, che quei famosi sogni a puntate che tornano ogni mese, ogni 2 mesi, ogni qualche settimana, in cui invece rivedevo Bologna proprio così com'era, con i suoi colori, i suoi portici, i suoi palazzi, eccetera. Riprendiamo il nostro discorso del 1° maggio dedicato al rapporto tra uomini e macchine. Abbiamo seguito derive folli, però ci sta bene. Siamo partiti parlando del cervello del dottor Frankenstein e siamo arrivati al cervello di Rasputin. Sono qua in studio con Stefano Morigi, autore di Connessi, Beati quelli che sapranno pensare con le macchine, edizioni San Paolo, un libro che ci fa riflettere su quanto la tecnologia e le macchine ormai facciano parte del nostro quotidiano, di quanto sia diventato labile, impalpabile questo confine fra noi e le macchine. Allora Stefano, abbiamo sentito in apertura la voce di Pierpaolo Pasolini. Cosa c'entra Pasolini con la tua riflessione sulle macchine? Pasolini, nelle Lettere luterane, avvia un'interessante riflessione sulla potenza educativa, lui dice pedagogica, degli oggetti, e racconta come il commercio, la relazione con un arredo domestico, nella fattispecie quello della sua prima casa di Bologna, abbia segnato potentemente dal punto di vista pedagogico la sua vita e la sua esistenza, come nessun altro insegnamento dei genitori, della scuola, dell'università abbia saputo e potuto fare. Parla degli oggetti in generale, parla di una tenda e scrive: la loro comunicazione era essenzialmente pedagogica. Essi mi insegnavano dove ero nato, in che modo vivevo e soprattutto come dovevo concepire la mia nascita e la mia vita. E quindi l'hanno potentemente segnato, è utile la sua riflessione per capire in realtà come in generale l'arredo di una casa, gli strumenti con cui comunichiamo, ci relazioniamo durante tutta la nostra giornata, sono di fatto macchine che riscrivono il nostro modo di stare e di abitare il mondo. Noi non siamo abituati a considerarle come tali, ma se pensi la tenda, una tenda della casa paterna, materna nel caso forse più vicino di Pasolini, è qualcosa che crea una cortina, che crea un diaframma fra te e il resto del mondo. C'è una sensazione tattile. La tenda ti toglie e ti aggiunge, ti scopre, ti disvela e ti nasconde. Ma tante, io ricordo la prima radio dei miei genitori e dei miei nonni. La ricordo tattilmente come era fatta, una radio di radica con davanti una sorta di altoparlante di juta. Mi ricordo ancora le manopole. Quella radio sentivo delle voci, con quella radio mi si apriva l'idea che esistesse qualcosa oltre i limiti spazio-temporali della mia casa, della mia camera. Vedi, Il problema è che non le consideriamo macchine, ancora siamo considerati a pensare alle macchine, o le macchine, le automobili per guidare, o le macchine per lavorare. Il trapano elettrico è una macchina, un tendaggio, un mobile, un tavolo, le sedie dei nonni, le porte che si chiudono a chiave, le porte con il vetro, sono tutte macchine e noi siamo dentro un percorso che ci permette, come il confessionale di cui parlavamo prima, di aprirci o di chiuderci o di capire, di scoprire o di capire. Sono delle cose da capire che vanno oltre la percezione dei nostri sensi. Sì, perché questi noi li chiamiamo macchine per intenderci, perché, ma in generale gli strumenti, no? Gli oggetti che noi utilizziamo come strumenti aprono possibilità di azione e quindi di riflessione sull'azione che compiamo, detto in termini più tecnici. L'aveva ben colto un grandissimo poeta come Paul Valéry, che risaliva addirittura a una tappa fondamentale della storia evolutiva dell'uomo. Si dice, scriveva Valéry, che il pollice opponibile sia ciò che distingue in modo più netto l'uomo dalla scimmia. A questa nostra proprietà, aggiungeva, ed è molto interessante secondo me, bisogna aggiungerne un'altra, quella di dividerci da noi stessi, cioè la possibilità di dire io, la possibilità di riconoscersi come un altro parlando di se stessi. Bene, diceva, può darsi che l'io e il mi delle nostre espressioni siano come il pollice e l'indice di qualche mano di psiche. E quindi ogni strumento che va ad articolare questa nostra capacità di agire, di far diventare un oggetto uno strumento, è uno strumento, è un oggetto, è una macchina che potenzialmente riscrive il nostro modo di agire, di pensare, di stare nel mondo con noi stessi e con gli altri. Moneta da due copeche. Amici e conoscenti avvisavano: in URSS non chiamate dagli alberghi o dalle stanze. I telefoni sono sotto controllo. Meglio fare le telefonate con i telefoni pubblici. A questo scopo ci si doveva premunire di una moneta da due copeche che veniva usata come gettone telefonico per chiamare dall'apparecchio pubblico piazzato nelle vie, nelle stazioni della metropolitana e in altri luoghi strategici. La moneta funzionava solo per le chiamate urbane, ma la sua efficacia durava in eterno, suscitando talora irate reazioni in chi attendeva che l'apparecchio si liberasse per usarlo a sua volta. La riuscita delle telefonate internazionali era invece legata alla mediazione del centralino di Budapest. Se Budapest, per questioni tecniche o strategiche, non rispondeva, la comunicazione saltava inesorabilmente. Ci eravamo interrotti col professor Giampiero Pieretto, di cui ricordo, tra poco potrete leggere il libro Memorie di pietra, monumenti, le dittature, Raffaello Cortina editore. Vediamo, professor Pieretto, di riportare quello che abbiamo trattato nel habitat individuale, personale, della propria casa, le macchine per uso domestico, le macchine di disvelamento, i percorsi attraverso le macchine che sono le architetture delle case dei genitori, dei nonni, delle case quando eravamo bambini, in un discorso più ampio. Le piazze in fondo sono la metafora allargata alle nostre abitazioni. I monumenti e la pietra scolpita che segna nelle piazze anche dei momenti di riflessione hanno la stessa funzione che potrebbe aver avuto la tenda di Pasolini o la vecchia radio della mia fanciullezza. Sì, i monumenti intesi ancora una volta come propaganda monumentale, appunto, a cui oggi si sostituiscono i cosiddetti contromonumenti, quelli che il passante deve andare a cercare se vuole vedere, che non sono in primo piano, che non obbligano il passante a girare loro intorno, magari senza notarli, per percorrere il proprio cammino. E quindi si parla di una monumentalità, di non monumentalità, artisti che si lanciano in prodotti che richiedono una partecipazione da parte del ipotetico eventuale fruitore. Quindi io posso non accorgermi assolutamente che esiste, per esempio, la pietra d'inciampo cosiddetta, che a Berlino segna la memoria degli ebrei deportati di fronte alla casa in cui avevano abitato. Ci sono anche a Roma, comunque, in certe case ci sono. Ci sono anche a Roma. Sì, ho letto che sono nate anche a Roma e che sono già state scalzate dalla loro postazione. Ecco, questo è un esempio di antimonumento e di contromonumentalità. Diciamo che a posto di alcuni sanpietrini di fronte alle dimore ci sono stati deportati ebrei, c'è un sanpietrino di ottone o di metallo dove c'è scritto il nome, la storia delle famiglie, delle persone che sono andate via, che è interessante. Uno deve proprio incapparci per renderci conto che ci sono. Sì, non inciamparci, perché immagino che i comuni non sono avrebbero... a rilievo. No, ci si può camminare sopra e ignorarle. Ma si può osservarle, ma si può anche osservarle, no? Inciampo, per modo di dire, ma non è a un livello superiore rispetto al San Pietrino, è confusa nel selciato, bisogna andarle a vedere, però è importante. Invece, sono appunto una nuova richiamo alla responsabilità da parte del flaneur, del vagabondo o anche dell'uomo d'affari che frenticamente procede verso la sua meta. Il problema delle memorie di pietra, dei grandi monumenti, della pietra monumentale, è che a un certo punto la storia cambia. Io ricordo queste immagini della grande statua di Saddam Hussein tirata giù, che uscivano fuori i grandi dittatori. Quando cadono le dittature, cadono anche le statue. A Roma ancora c'è l'imbarazzo per l'obelisco con scritto Mussolini, ci sono state polemiche, cancelliamolo, leviamolo, la ricostruzione di Villa Torlonia era come fosse un'area maledetta. Ecco, come si fa a depotenziare dell'area, diciamo, dell'imbarazzo del passato, quando i monumenti raccontano anche passati che andrebbero sovrascritti nelle memorie collettive? Ma forse con le statue è più semplice, perché è sufficiente abbatterle o sostituirle. Quando si tratta invece di complessi monumentali, di vere e proprie costruzioni, spesso in cemento armato o in pietra, quindi che richiederebbero un investimento anche venale, monetario notevole per essere rimossi, allora sì, l'imbarazzo si fa grande. Quindi in molti casi sono stati risemantizzati, quindi a quel certo monumento è stato attribuito un significato diverso, è stato fatto proprio da un nuovo regime. In altri casi sono abbandonati in maniera molto suggestiva, se vogliamo, alle forze della natura, che li ricoprono pietosamente di piante, fiori, alberi, e l'incuria del tempo li fa progressivamente cadere a pezzi. In altri casi sono stati invece ripescati, ripensati come testimonianza, e qui tocchiamo l'altro grosso problema della memoria. Ha senso mantenere simboli di un regime odiato, che si è reso responsabile di efferatezze? Il grande dibattito è ancora aperto, soprattutto in Germania, con il problema della svastica nazista. Che non in Germania può la svastica è vietata anche nei soldatini. Anche nei soldatini, diciamo, dei collezionisti non possono mettere la svastica. Se sono soldatini che parlano del periodo del nazismo, non bisogna mettere la svastica. È proibito, è qualcosa di ancora interdetto. Stefano Morigi, vediamoli riportare su un piano personale quello che ci ha detto il professor Piretto. Innanzitutto, forse non abbiamo ben fatto capire alle persone che ci ascoltano, spiegato la differenza fra oggetto e macchina, perché guarderanno adesso nelle loro case, saranno circondati da posacenere, da chiavi, da suppellettili, diranno: ma sono oggetti o macchine questi? Diciamo che farebbero bene inquadrarli tutti nei termini di strumenti, alcuni più complessi, alcuni più interattivi, alcuni meno. Lo sforzo compiuto, il tentativo compiuto in questo, anche un portapenne è uno strumento. In questo mio serve libretto a contenere le penne. È quello di indagare, dagli strumenti più semplici alle macchine più sofisticate, poniamo i computer, i cellulari, tutti quelli che adesso spaventano, soprattutto quando vanno a sfiorare o addirittura a riplasmare le abitudini delle nuove generazioni. Il tentativo è quello di indagare dall'interno la nostra relazione con quegli oggetti che diventano strumenti, che quando sono fatti in un certo modo, pensati e progettati in modo sofisticato, diventano macchine. C'è una linea di continuità dentro la quale si ridisegna la nostra quotidianità, tanto quanto la nostra capacità di elaborare concetti, di sviluppare un certo tipo di memoria piuttosto che un altro. E quindi, se noi vogliamo veramente capire chi siamo, non possiamo farlo indipendentemente da una profonda interrogazione su quelle macchine più o meno complesse, su quegli oggetti, su quegli strumenti che scandiscono la nostra quotidianità. Vi faccio un esempio proprio in conclusione della trasmissione. Immaginate un vostro viaggio in metropolitana, che già state dentro una macchina. Immaginate cosa fanno le persone attorno a voi, in maniera precipua, cosa fate voi. Avete le cuffie oppure avete in mano il vostro smartphone e vi divertite con lo smartphone. 10 anni fa la gente leggeva il giornale, 10 anni prima ancora non c'era la Free Press, la gente stava lì e guardava nel vuoto. Questa è una mutazione comunque di abitudini degli spazi. Assolutamente, ma noi pensiamo forse che le aule di scuola, così come le conosciamo, siano degli spazi ingenui. Sono spazi modellati su una potentissima tecnologia che si chiama libro, laddove c'è l'insegnante che è il portavoce del libro e gli altri devono ascoltare quello che l'insegnante veicola attraverso la sua voce. Per questa ragione le classi sono progettate in quel modo. Per questa ragione, quando sempre di più le tecnologie entreranno dentro la scuola, anche gli spazi dovranno essere potentemente ripensati. Ecco, questo sarà l'argomento. Fra qualche istante, dopo la pausa, riprenderemo proprio gli spazi didattici, come sono riplasmate le macchine, perché è un grande problema, perché oggi laddove si svolge la didattica esiste un braccio di ferro fortissimo fra nuova generazione che vive con le macchine e una generazione molto passatista dei docenti che in realtà si sentono spodestati da queste macchine, come dicevamo, quei luddisti che temono che le macchine tolgano lavoro agli esseri umani. Melog, cronache meridiane. Meglio con i libri digitali, almeno è tecnologia, si evolve la scuola italiana che è la più bassa, penso. I formati digitali dei libri? Potrebbe essere una cosa positiva, magari con l'aiuto di internet si può studiare meglio, secondo me è più... si può essere più concentrati forse che su un libro, ad esempio io mi trovo più... meglio a studiare su internet che su un libro. Diciamo una cosa, Stefano Morigi, però... mi è venuto in mente ascoltando questa Vox Populi, gli studenti che parlano dell'ebook. Esiste anche un altro pericolo, esiste una sorta di feticismo, di idolatria della macchina, che la macchina è comunque sempre meglio di, perché nuova, perché moderna, perché tecnologica. E lo dicono spesso le persone che in realtà con le macchine hanno un pessimo rapporto. Sono quelli che, per cui le macchine sono scatole chiuse, sigillate, scatole nere, opache, che non sanno nulla di quello che c'è dentro la macchina. E oggi la tecnologia in questo caso ci aiuta molto. Le applicazioni, i sistemi semplici di scrittura, di intervento, le macchine non devi aprirle mai. Non devi nemmeno sapere come funzionano, perché chi ti dà la macchina ti dà già tutto il meccanismo e devi sempre ricorrere a lui. Ecco, come si ovvia questo pericolo? E poi andiamo avanti nel discorso dei libri, che è molto interessante. Diciamo una cosa, che l'idolatria è l'errore uguale e contrario a quello della diffidenza immotivata, no? Apocalittici e integrati, per dirla con Umberto Eco, sono due figure di esasperazione contrarie, ma che si muovono nello stesso solco di una incomprensione culturale della tecnologia, perché certo è importante sapere come funziona un cellulare, come funziona un microonde, un forno a microonde piuttosto che una lavatrice, ma questa è una questione di competenza operativa strumentale. Quello su cui tentiamo di sollevare l'attenzione delle persone è che l'evoluzione tecnologica, compresa quella che sta avvenendo, la transizione al digitale delle scuole o comunque in generale delle nostre vite, non è solo una questione di aggiornamento informatico, è un'evoluzione culturale e quindi va affrontata con tutte le categorie di strumenti intellettuali, pratici, concreti del caso. Le macchine sono un potente strumento di riscrittura delle nostre vite, delle nostre abitudini di relazione, delle nostre capacità di elaborare concetti o di mantenere la concentrazione, di sviluppare un certo tipo di memoria piuttosto che di un'altra. E quindi di questo bisogna parlare dentro e fuori la scuola. Confondere l'evoluzione culturale indotta dall'introduzione di alcuni particolari strumenti o macchine, come le vogliamo chiamare, con un semplice aggiornamento informatico è un atteggiamento ingenuo, se non addirittura di pura malafede. Sì, c'è ancora questa semplificazione. Il computer sta sempre sul computer, che oggi nessuno di noi sta sempre sul computer. Oggi il computer è semplicemente un mero mediatore, noi stiamo sempre in un altro mondo, popolato da umanità, popolato da interesse, popolato anche da maniera di passare straccamente il proprio tempo. Mi sta anche bene questo, noi passiamo un sacco di tempo straccamente davanti alle macchine. Comunque sia, valutiamo e misuriamo nuove possibilità di passare straccamente il nostro tempo. I nostri padri se ne stanno stravaccati a un bar, noi ce ne stiamo un'ora in più magari a passeggiare attraverso i social network senza far nulla di apparentemente utile, ma alla fine anche di questo noi avremo comunque un risultato nella nostra esperienza. Certo, qualche generazione fa, oppure la precedente, stavano sul divano davanti alla televisione. Il problema non è individuare il peggio possibile indotto o potenzialmente indotto da una tecnologia per esorcizzare le novità che essa porta nel bene e nel male, al di là del bene e del male. Il problema è indagare quali dinamiche vengono mosse dall'introduzione di un nuovo strumento nella pratica quotidiana dei singoli piuttosto che dei gruppi o addirittura di una società. E secondo me, per impostare il problema, non bisogna confondere la competenza operativa con cui noi ci diciamo capaci o meno di utilizzare le macchine con quella che molti autori, molti studiosi hanno chiamato educazione scientifica. Uno dei più grandi fisici del Novecento, che è appunto Richard Feynman, in una conferenza aperta a un pubblico eterogeneo, quindi non di specialisti, chiedeva nel 1963 alla platea medesima se secondo loro quella che si stava vivendo fosse o no un'epoca scientifica. Lui stesso ricordava i grandi passi della scienza e della tecnologia e poi, con uno spirito che voleva indurre certo alla provocazione ma anche alla riflessione, rispondeva no, non è un'epoca scientifica, e non già perché la scienza non faccia sensibili, straordinari passi avanti come faceva all'epoca e continua a fare adesso, ma perché è un'epoca che non ha una mentalità scientifica. La scienza, ancor prima di una cozzaglia di formule, di concetti e di funzioni e quant'altro, di nozioni, è una mentalità critica, analitica, con cui si definisce lo stesso concetto di cittadinanza. Che è l'equazione che più manca, più difetta al nostro paese. Esatto. Forse il concetto di cittadinanza c'è un po' più chiaro, ma la cittadinanza con questa mentalità non c'è. Sono paesi dove non accadrebbe stamia, non ci sarebbe la gente che va a liberare i topolini negli stabulari, che ancora ci sono magistrati che aprono inchieste su quanto i vaccini facciano venire l'autismo e cose del genere. Sono cose che in realtà ci pone su un piano molto molto critico da questo punto di vista. E allora pensare con le macchine significa pensare dentro le macchine, dentro le dinamiche che esse inducono, e guadagnare, maturare una consapevolezza critica e analitica rispetto agli accadimenti che cambiano le nostre vite, che in generale si chiama educazione scientifica. Questo significa pensare con le macchine. Ecco, avevamo lasciato in sospeso il professor Giampiero Piretto, che ha studiato oggetti e insegna appunto metodologia della cultura visuale. Ecco, il libro in sé può essere considerato anche una macchina nella sua evoluzione, e quanto nei rapporti con i pensieri impositivi, forti dittature, il libro è diventato un simbolo poi difficile essere sostituito, anche da altri libri probabilmente. Sì, il libro resta sicuramente un oggetto privilegiato per la sua storia, per la sua portata. Mentre vi ascoltavo pensavo, traducendo un'esperienza personale le vostre considerazioni, che sul fronte della didattica io mi avvalgo sempre più di digitalizzazioni di libri, quindi se si deve sottoporre o proporre agli studenti un articolo contenuto in un libro, con grande e giusta ira degli editori si tende a non far comprare agli studenti il libro o a non mandarli in biblioteca a cercarlo dove ne esiste una sola copia, ma il docente lo digitalizza, ne ricava un PDF, lo mette sul sito della didattica online e gli studenti se lo scaricano e se lo leggono. Anche diventa materiale contaminabile, riusabile. Un testo una volta digitalizzato è un'altra cosa, è qualcosa che mi appartiene, posso fare ciò che vuoi. Però il libro come tale vedo per esperienza che fra i giovani circola molto poco, può essere una ragione di costo, di prezzi. Questa è la scusa che adducono soprattutto gli studenti quando dicono ma devo comprarli tutti. E con molto ma professor Piretto, scusa, il digitale è considerato un grande elemento di pensiero laico, laicizza il libro, non ci sono più feticismo, quindi non c'è più culto del libro. Non c'è più il gusto del possederlo, e soprattutto a fine esame preparato del libro ci si sbarazza, o per ricavarne 2 o 3 euro rivendendolo come usato, o perché occupa spazio e non mi serve più. Quindi l'idea di conservare un libro, di farsi una propria piccola o grande biblioteca, direi che sta perdendo valore di giorno in giorno. Anche perché la scelta si fa nelle case: o tengo i libri o do spazio alla cameretta di mio figlio o al salotto o all'angolino della tecnologia. Siamo arrivati alla conclusione di questo travagliato primo maggio, vi darà altre riflessioni oltre che andare a mangiare le fave e il pecorino nei vostri giardinetti. Vi salutiamo, grazie Stefano Morigi, grazie Giampiero Piretto. Grazie a voi, buona festa a tutti, buona giornata.